Buongiorno da Stoccarda, capitale del Baden-Württemberg. Servono solo poco più di 2 ore di treno per arrivare da Monaco di Baviera a Stoccarda. Un comodo intercity collega le due città rivali. In questo reportage vi porteremo al confine tra Germania e Francia per indagare quale Europa si prepara alle prossime elezioni europee. Tra Stoccarda e Strasburgo vi racconteremo storie sul campo e vi porteremo storie da un'Europa che, pur nella crisi, prova a integrarsi maggiormente. Provate a trovare un bar aperto nel centro storico di Stoccarda prima delle 9 del mattino. È quasi Mission Impossible. Alla fine trovo l'unico disposto a servirmi cappuccino e cornetto annaffiato da succo d'arancia. Il locale rappresenta un elegante mix tra una panetteria e un bar con musica di sottofondo in cui fa capolino qualche brano italiano. Penso a quanto siano diversi politicamente due land così vicini e così ricchi, la Baviera da sempre di centrodestra, nonché sempre più euroscettica, e il Baden-Württemberg, di cui Stoccarda è capitale, che 3 anni fa ha eletto il primo governatore verde nella storia della Germania, il quale, giusto per marcare le distanze sulle politiche europee, si è messo a criticare le posizioni anti-immigrazione dei colleghi della CSU bavarese. Abbiamo così deciso di capirne di più, incontrando il giovanissimo presidente dei Verdi del Baden-Württemberg, il 26enne Oliver Hildebrandt. Mit Blick auf die Europawahl wollen wir nicht nur Wahlkampf für uns Grüne machen, sondern wir wollen auch Wahlkampf für Europa machen. Noi vogliamo fare una campagna per l'Europa, spiegando alla gente che i cambiamenti necessari nell'Unione Europea li si raggiunge non contro l'Europa, ma con l'Europa e in Europa. Vogliamo lottare per un'Europa migliore, vogliamo un'economia sostenibile, una via d'uscita dalla crisi solidale e non centrata sull'austerità, una lotta agli interessi delle lobby a Bruxelles, quindi più democrazia in Europa, spiega Hildebrandt. Also mein Eindruck ist sehr stark, dass es eine Vertrauenskrise gibt. Ma cosa vi chiedono gli elettori quando li incontrate qui nel Baden-Württemberg, domando? La mia impressione è che ci sia una crisi di fiducia, che ha molto a che vedere col fatto che la gente sente l'Unione Europea come qualcosa di molto lontano, che sembra funzionare in modo non democratico e opaco, dice Hildebrandt. Io li posso capire. La seconda cosa è che la crisi dell'Europa ha reso più insicure le persone. Ciò va preso sul serio. A loro va spiegato perché le paure su cui giocano alcuni partiti non siano la strada giusta. Hildebrandt ha appena introdotto l'argomento euroscetticismo. Prendiamo la palla al balzo e rifocalizziamo la discussione sul tema delle differenze tra Baviera e Baden-Württemberg. Abbiamo posizioni molto diverse dalla CSU bavarese. Critichiamo il fatto che attraverso la parola migrazioni della povertà facciano alla fine il gioco del partito anti-euro Alternative für Deutschland, afferma Hildebrandt. La libertà di circolazione nell'Unione Europea vale per tutti, per i cittadini, per le imprese. Consideriamo molto positiva la libera circolazione, contribuisce a creare uno spirito europeo. Non vogliamo certamente riportare indietro le lancette dell'orologio, spiega il presidente dei Verdi, che attacca i cristiano sociali bavaresi. La CSU racconta una mezza verità. Noi tedeschi siamo obbligati all'immigrazione e alla libera circolazione. Abbiamo bisogno di forza lavoro qualificata, ci manca in modo urgente. La seconda cosa è che considerare tutti gli immigrati come dei turisti del welfare è totalmente falso, se non addirittura pericoloso. Ci sono regole chiare che indicano come non si abbia diritto a sussidi immediati al solo toccare il suolo tedesco. Quello della CSU è populismo allo stato puro. Also so zu tun, als sei das nichts leichter auf der Welt als nach Deutschland zu kommen und sich Geld abzuholen. Das ist einfach Populismus pur, meiner Ansicht nach. È una piacevole passeggiata nel centro cittadino di Stoccarda, quella che ci separa dal nostro prossimo appuntamento nei pressi del municipio. In Nadlerstrasse ha sede l'Europa Centrum di Stoccarda, fondato nel 76 per sviluppare l'informazione e la formazione sull'Europa. Si tratta di un centro indipendente che lavora a contatto con cittadini e istituzioni. Florian Setzen ne è il direttore. Con lui tastiamo il polso all'europeismo del Land meridionale tedesco. La maggior parte della gente qui si sente europea. Una parte, soprattutto tra i giovani, si sente così europea da dare per scontati molti dei vantaggi che l'Europa porta con sé, spiega Setzen. Gli anziani sono invece più scettici. Purtroppo, nella memoria della gente, il premio Nobel per la pace all'Europa è già un ricordo. Le elezioni europee si avvicinano, ricordo. Sono entrate nel dibattito pubblico? È molto difficile capire se la gente qui andrà a votare. Io sono ottimista sul tasso di affluenza a fine maggio. L'impressione è che i cittadini si siano resi conto che l'Europa ha avuto un ruolo nello stemperare la crisi economica. Inoltre, gli euroscettici criticano Bruxelles, ma non sembrano portare soluzioni alternative convincenti. In ogni caso, è molto interessante notare come qui a Stoccarda si voterà sia per le comunali che per le europee. Negli anni scorsi la sensazione era che la gente andasse a votare in primis per le comunali. Beh, ora invece l'impressione è che il primo motivo di voto siano proprio le elezioni europee, chiosa Setzen. Eigentlich eher zur Europawahl gehen. Stazione centrale di Stoccarda, lasciamo la Deutsche Bahn per prendere un comodissimo TGV francese che unisce Stoccarda a Parigi Est, passando per Strasburgo, seconda capitale d'Europa. Lì continuiamo il nostro reportage a cavallo tra Germania e Francia. Guten Tag, meine Damen. Ondeggia intorno ai 250 km orari la velocità del TGV che collega Germania e Francia. TGV Est lo chiamano i francesi. Un salto di qualità enorme nei collegamenti tra i due paesi. Fino a 7 anni fa un tragitto Stoccarda-Strasburgo poteva rivelarsi un mezzo incubo con cambi obbligati nelle stazioni di Kehl o Offenburg. Ora invece si viaggia comodi, in 1 ora e 20 minuti. Anche questa è integrazione europea. L'equipaggio è franco-tedesco. Il controllore uomo indossa la divisa della SNCF francese e parla un ottimo tedesco. La donna indossa invece la divisa della Deutsche Bahn. I passeggeri sono un interessante mix di nazionalità, non solo tedeschi o francesi, tanti sono gli americani, gli asiatici o gli est europei. Saliamo verso Karlsruhe prima di scendere verso Strasburgo. Ed eccoci arrivati alla stazione centrale di Strasburgo. Strasburgo, capitale d'Europa, che però nasconde anche un'anima nera, e parliamo del Front National, quel partito che fa tanta paura non solo alla Francia, ma anche all'Europa. Arrivati a Strasburgo dobbiamo prendere un tram dal centro città, distante pochi minuti dall'avveniristica stazione centrale, e recarci a Schiltigheim, comune alsaziano di 30.000 abitanti. Ha uno sputo letteralmente da Strasburgo, i confini tra i due centri sono impercettibili. Il tram impiega un quarto d'ora per traghettarci al nostro prossimo incontro, quello con l'anima nera della Francia. Perché avere paura di una partita che lei la verità? Penso che il Front National... Lei, la verità è che l'Europa non è buono per il paese. Anima nera che ha le fattezze, a dir la verità, abbastanza innocue di una signora di mezza età, Pascal El, e di un giovane dai tratti più tedeschi che francesi, Flavien Suk. La prima è segretaria dipartimentale per il Basso Reno del Front National, il secondo è a capo dei giovani del partito. L'incontro in un ristorante di proprietà della El. Pourquoi avoir peur du Front National puisque nous disons la vérité? Perché avere paura del Front National? Noi diciamo la verità. Marine Le Pen ha posto l'accento sui problemi che toccano davvero le persone. L'Europa è finita, l'Europa non può più continuare così. L'Europa deve divenire un continente dove la Francia recupera la propria sovranità. Dobbiamo recuperarla, non dobbiamo più essere dipendenti da Bruxelles. Noi siamo sotto il diktat di Bruxelles, ci dobbiamo separare. Bruxelles va soppressa, non la vogliamo più, mette subito in chiaro Pascal El. Premièrement, veut supprimer la Commissione Europea di Bruxelles. Interviene a questo punto Flavien Suk, che spiega come dovrebbe funzionare la nuova Europa. In primo luogo dice, occorre sopprimere la Commissione Europea con le sue decisioni tecnocratiche e illegittime. In secondo luogo, vogliamo impiantare un'Europa delle nazioni sovrane qui a Strasburgo, che diverrebbe così la capitale della cooperazione sui grandi progetti, quali Airbus, Ariane, Erasmus, ma non di un'Europa federale, dice Suk. Alors, justement, non. Faccio l'avvocato del diavolo. Se l'Europa così come la conosciamo chiudesse i battenti, e posto che non sia così scontato che questa nuova Europa degli Stati Nazione abbia sede a Strasburgo, non rischia la capitale alsaziana di perdere un'importante fonte di reddito? No, risponde Flavien Suk. La nostra idea è smontare l'Europa di Bruxelles. Quella di Strasburgo ha diritto di esistere. Siamo coscienti che i funzionari europei portano ricchezza qui in città, ma è anche vero che questo fenomeno ha fatto esplodere i prezzi delle case e degli hotel qui, frenando un turismo di tipo più popolare. Je crois que au contraire l'élection européenne qui elle est Marine Le Pen ha dichiarato che l'Unione Europea farà la fine dell'Unione Sovietica, aggiungiamo. Siete d'accordo? C'est peut-être pas totalement faux. Non è del tutto falso, se continuiamo con queste politiche ultraliberali e immigrazioniste sbatteremo contro un muro, ci sarà l'implosione dell'Unione Europea e dell'Eurozona. Il Front National vuole evitare proprio questo, chiosa Suk. E de changer tout de suite d'Europe pour éviter justement l'implosion. Lascio i due rappresentanti del Front National con un po' di dubbi. Per loro stessa missione, le prossime alleanze all'Europarlamento del gruppo euroscettico appaiono quantomeno bizzarre. La Lega Nord, concordano, è all'opposto del Front su temi interni, è separatista, mentre Marine Le Pen è nazionalista, ma si trovano d'accordo sui temi di politica estera. Pascal El mi svela che suo marito è kosovaro. Può sembrare una contraddizione, viste le posizioni del partito sugli immigrati, ma lei resta sinceramente convinta che Marine Le Pen abbia modernizzato il partito, ripulendolo degli elementi più estremisti e professionalizzandolo in un certo modo. È un partito di destra, non di estrema destra, ripeto in coro con Flavien Suk. Dagli anti-euro ai giovani europeisti. A Strasburgo è attiva una sezione del network europeo Café Babel, giornale online che racconta l'Unione Europea dal punto di vista della generazione Erasmus. In un bar incontro Lucie Dupin, francese di Tours, e Olaya Pastor del Valle, spagnola di Madrid. Per me, je vois l'Europe comme une chance. L'Europa è una possibilità per me, dice Lucie. La cosa più importante è che si tratta di una realtà che abbraccia tutti gli aspetti della nostra vita. L'Europa è tutto, aggiunge Olaya. Ça me concerne dans le sens où ça me fait peur, parce que c'est vrai que non possiamo non toccare con le due giovani il tema dell'anti-europeismo montante, che in Francia sta assomigliando sempre più a un'onda nera. Il Front National rischia di diventare il primo partito transalpino. Mi fa paura, ho l'impressione che la mia generazione non conosca bene l'Unione Europea e quindi non vada a votare. Più si alza la tensione, più si favoriscono i partiti anti-europei, dice Lucie, che aggiunge: i giovani francesi hanno un deficit di conoscenza sull'Unione Europea, hanno una conoscenza troppo basica. Se guardo qui a Strasburgo, la gente non ha veramente coscienza di abitare in una capitale comunitaria. Le persone che si interessano all'Europa a Strasburgo sono raramente originarie di qui. La presenza di istituzioni europee fa parte del paesaggio urbano, ma non se ne occupano realmente. Strasburgo è capitale europea solo una settimana al mese, in coincidenza con le sessioni dell'Europarlamento. Le altre tre settimane la vita culturale è la stessa di qualsiasi altra grande città francese, annota delusa Lucie. La vita culturale è la même qu'une autre grosse ville française. Sabato mattina siamo di fronte alla stazione centrale di Strasburgo, della capitale alsaziana e anche capitale d'Europa. Si chiude qui questo nostro reportage a cavallo tra Francia e Germania. Vi abbiamo raccontato l'Europa che si prepara alle elezioni europee, lo abbiamo fatto da due regioni di confine e abbiamo capito che queste elezioni europee saranno estremamente decisive. In ballo non c'è solo il futuro dell'Europa, dell'Unione Europea così come la conosciamo, ma l'idea stessa di Europa.